Allora, les amis, benvenute e benvenuti a una nuova puntata, la penultima puntata di Extra Extra. Era un mistero se sarebbe arrivata o meno. Arriva di corsa, appena finita la tappa e io devo correre a fare altro, ma prima voglio parlarvi di qualcosa anche quest'oggi, perché da qualche anno io seguo le corse con delle altre persone, e spesso sono persone più giovani di me, ed è una cosa che mi piace molto perché imparo sempre qualcosa di nuovo, soprattutto del vocabolario nuovo. Chi ci ha seguito il Giro d'Italia avrà colto il mio stupore nell'apprendere il bizzarro vocabolario di Michele Pelacci, ma se vado un po' indietro nel tempo di qualche anno, penso che la prima parola curiosa che ho imparato sulle strade del Giro me l'ha insegnata Leonardo Piccione, che avete appena finito di leggere, quando mi ha parlato per la prima volta di bromance. Cos'è la bromance? Ve lo leggo da Wikipedia. È uno stretto rapporto non sessuale tra due o più uomini. È una forma di intimità omosociale, cioè un rapporto sociale non erotico tra persone dello stesso sesso. In alcune situazioni si può parlare anche di amore fraterno, seppure la relazione non sia vincolata da legami di sangue. Ora, Wikipedia è un po' fredda, allora sono andato a cercare su un sito un po' più affidabile quando si parla di ciclismo, soprattutto che è Donna Glamour, dove ho scoperto che l'inventore di questa parola, o meglio colui che la usò per la prima volta, fu Dave Carney, che la scrisse in un articolo del 1990 per la rivista di skateboard Big Brother per identificare il rapporto che si viene a creare comunemente tra gli skaters. E mi piace perché parleremo del rapporto che si crea tra i ciclisti quest'oggi. Il concetto, mi ricorda sempre Donna Glamour, si può far risalire sino ad Aristotele nel 300 a.C. ed esiste anche una serie TV coreana che si chiama Bromance Drama, che pare sia un cult in patria. Noi però parliamo di bromance quest'oggi, io ne parlo quantomeno perché vi parlo del rapporto tra i tre grandi campioni, tra i tre grandi duellanti, anche se il duello ormai si è dipanato, del Tour de France di quest'anno. Forse ricorderete la scenetta sul guardarsi il culo, che nel ciclismo è un termine che ha un significato chiaro, tra Poggi e Remco qualche giorno fa, e pare infatti che tra i due in questo Tour de France sia nata una vera e propria bromance. È una situazione interessante che due dei tre corridori più forti al mondo, insomma, che si battono per vincere un Tour de France, non solo si rispettino, ma in un qualche modo si affezionino. E oggi abbiamo visto anche Pogacar e Vingo scherzare sui passaggi di borraccia, poi magari il finale in cui per la prima volta abbiamo visto Pogacar vincere da succhi a ruote, cosa che ci ha stupito di saper fare anche questo. Così smentisce un po' questa possibile bromance, ma insomma c'è un clima di partecipazione tra i duellanti, può piacere o meno, ma tant'è, c'è. Il bello è che quando si parla soprattutto di Remco e Evenepoel non è un caso isolato, perché forse vi ricorderete una delle prime puntate di Extra Extra, vi parlavo a inizio tour del nuovo Remco, no? Di questo corridore maturo, pacifico, che l'Equipe aveva definito Dalai Lamesco. Ecco, questa settimana l'Equipe ha raccontato due storie affettuose che lo vedono protagonista proprio con gli altri due rivali per il podio, per la classifica generale di questo Tour de France. Partiamo dal giornale di oggi, torniamo quindi alla tappa di ieri, all'arrivo di Isola 2000, e al rapporto tra Remco e Vingegaard, che è un rapporto che ha una particolarità molto semplice, che è l'avvicinamento a questo Tour de France, perché arrivano entrambi da un trauma, entrambi sono stati fortemente colpiti dalla famosa caduta al Giro dei Paesi Baschi ed entrambi si sono ritrovati qui. Quindi oggi Pierre Callevart racconta di come questi due corridori siano arrivati ieri all'arrivo stringendosi la mano, no? Si sono attaccati a vicenda, ma poi dopo si sono scambiati anche parole dolci. Si sono ringraziati, dice Evenepoel, che Vingegaard lo ha ringraziato per averlo accompagnato e ribadisce Evenepoel: non c'è nulla da vergognarsi a tagliare il traguardo con un due volte vincitore del Tour. Sottolinea l'autore come Pogacar stesso avesse consigliato a Remco di attaccarlo e lui lo ha fatto fino a un certo punto ieri, ha un po' accelerato, ma poi dopo si sono parlati, ha invitato Vingegaard a dargli il cambio, Vingegaard ha rifiutato ed è molto bella la spiegazione che dà Evenepoel al termine della tappa di ieri: è un suo diritto assoluto, sta difendendo il secondo posto, sente di non poter più vincere il Tour, io ho corso solo per il mio terzo posto. Non è una vera e propria bromance, ma insomma sicuramente è un rapporto così affettuoso. Tutt'altro aspetto lo ha la relazione tra Pogacar e Remco Evenepoel. E qui torna un altro pezzo dell'Equipe, uscito qualche giorno fa, l'ha scritto Johan Hautbois, ed è uscito dopo la tappa delle fughe vinta da Carapaz. Carapaz oggi purtroppo non ce l'ha fatta, purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno Mas, avete visto l'ennesima vittoria di Pogacar, ma dopo quel giorno Pogacar ed Evenepoel, arrivati al traguardo insieme, almeno se non ricordo male, non sono andato a controllare, ma se non sbaglio arrivarono insieme e sicuramente arrivati insieme nella zona del podio, della cerimonia protocollare, dove loro si ritrovano ogni giorno perché sono i portatori di due maglie, per cui soli a farsi i loro rullini pedalando nell'attesa delle premiazioni, si è svolta insomma una delle tante scene che hanno segnato questa loro estate. Vi leggo alcuni passaggi di questo articolo perché mi ha molto colpito e mi ha fatto sorridere. Sono pure contenti di loro stessi, orgogliosi della loro insolenza giustificata dal talento. Non sappiamo se lo sloveno e Remco Evenepoel trascorreranno il mese di agosto insieme, ma la colonia di luglio è da 3 settimane un campo di gioco a loro misura, sia sulla strada che fuori. Dalla linea di partenza con i selfie e le buffonate fino a quella d'arrivo, il teatro dei loro ricongiungimenti, sotto una tenda rinfrescata a malapena da ventole grandi come un bimotore a reazione. È quasi come se avessero aspettato questo momento per tutto il giorno, con la fretta di farla finita con i compiti, di raccontarsi la loro giornata, durante la quale se ne sono date per un po' prima di fare pace, mangiando caramelle. Preso dal vortice quotidiano del cerimoniale, Tadej Pogačar ieri non aveva ancora avuto il tempo di pescare dal suo pacchettino di bonbon, ma stava in un qualche modo pizzicandone la plastica con la punta delle dita mentre si dirigeva verso la zona mista. Nello stesso momento Remco Evenepoel stava scendendo i pochi gradini che portavano al podio, sicché i due corridori sono arrivati contemporaneamente all'incrocio e il belga, pur avendo la precedenza a destra a suo favore, ha lasciato la strada libera al più anziano, che non ha avuto l'imbarazzo di dargli la precedenza. Ma torniamo alle caramelle, filo conduttore della loro complicità, quelle che non distribuiscono a molti nel loro personale parco giochi, dove regnano come piccoli tiranni non appena comincia la tappa. Dopo averli condivisi il giorno precedente persino con il piccolo Thomas Gachignard, questa volta Pogačar ha tenuto stretti i morbidi dragibus e i coccodrilli di gelatina tra le mani, incrociate dietro la schiena, mentre il leader della Sudal Quickstep è apparso nel bel mezzo di un'intervista. Ovviamente ha cercato di rubarglieli. E ovviamente l'audacia ha fatto sorridere il corridore della UAE, che però non nasconde la sua ammirazione per l'avversario e per la sua impertinenza. Come cani rabbiosi in una piazza, i due si fiutano a vicenda, e non lo diciamo soltanto perché dopo la tappa di Pladadè entrambi hanno detto che gli piaceva vedere il sedere dell'altro, da una distanza più o meno grande. Ecco, si vogliono bene, a quanto pare, Pogačar ed Evenepoel. Oggi non sono arrivati insieme, ma sono sicuro che, non ho visto le immagini, si saranno ritrovati per scambiarsi caramelle o comunque per cazzeggiare amabilmente dopo la linea d'arrivo. Oggi sicuramente hanno cazzeggiato amabilmente tanti dopo il traguardo, perché questo Tour de France per quasi tutti è finito. Vedremo la crono domani di come andrà. Vedremo un duello, verosimilmente, proprio tra Pogačar ed Evenepoel. Se Poggi ne vorrà vincere una terza di fila, sicuramente la crono sulle strade di casa, insomma, ci tiene. Ma intanto godiamoci questo tour anche per questo, non soltanto per lo spettacolo eccellente che ci hanno fornito questi campioni, ma anche per questa amicizia, per questo affetto, per questo divertimento, per questa romance. Au revoir.